Il cielo in una frase di Filippo Di Giacomo e di Valerio Rocchetti, nostro regista, e Riccardo Silvi, nostro redattore, sarà anche di Andrea Papi la nostra guida questa settimana. La gioia esiste, è rimasta impressa nella pellicola, nell'album di famiglia, dei tempi di guerra, in un padre sereno nel tenere in braccio la propria figlia, in una coppia di fidanzati che cammina spensierata, stretti un abbraccio che comunica solamente amore. Avrete compreso che Andrea Papi è un fotografo. La sua ultima mostra, quella appena inaugurata, si intitola Album di famiglia, è fruibile a Roma, Palazzo Mattei di Giove, cioè nella Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea, via Caetani. Esatto. Ed è, diciamo, un'esperienza particolare per un giovane fotografo, Andrea è molto giovane, che si immerge in quello che poi è una delle realtà più negate della nostra contemporaneità, tutta protesa alle meraviglie che il presente ci annuncia, il futuro ci lascia intravedere, la memoria. Esatto. E la memoria vista attraverso gli scatti di persone che magari non ci sono più, ma che in quel momento vedevano qualcosa. Che cosa hanno visto, Andrea? Beh, volevo innanzitutto dire che diciamo questa mostra all'interno di un festival, il Festival della Fotografia di Roma, che c'è ogni anno, questa è l'ottava edizione, e ogni anno ha appunto una tematica. Quest'anno la tematica era Declinazioni della gioia e l'atto del fotografare, che io ho interpretato proprio con questo lavoro. Quindi ho pensato a fare un lavoro sulla mia famiglia, sulle mie foto di famiglia, cercando di al tempo stesso non essere né banale né scontato, perché comunque come tematica poteva voler dire tutto e niente. Io ho cercato di proprio catturare, anzi ricatturare, quegli sguardi che provenivano dal passato dei miei parenti, di molti dei quali non ho mai conosciuto, e cercare di riproporli al presente in chiave positiva. Quindi, per quanto si è detto dall'inizio, il mio è tuttora un intento che vorrebbe appunto rendere universali quei sentimenti, quelle sensazioni che ovviamente sono durano un attimo, un momento. Infatti c'è nel testo che accompagna il catalogo proprio una citazione della Sontag, di Susan Sontag, che dice che la fotografia è un memento mori. Quindi diceva che fare una foto vuol dire partecipare alla mutevolezza, alla vulnerabilità e alla mortalità di un'altra persona. E, proprio scopo di questo mio lavoro era rendere atemporale questo sentimento, e quindi permettere alle persone che potessero vedere appunto queste foto della mia famiglia di immedesimarsi, sebbene non appartengano alla propria famiglia. Quindi cercare di universalizzare l'attimo della fotografia. Sì, ma noi siamo dei grandi fruitori di immagini, anzi siamo dei consumatori voraci di immagini oggi come oggi. Tutto si trasforma in uno scatto, una clip, si mettono spesso e volentieri in condivisione immagini che ci sembrano importanti, e poi magari sono semplicemente immagini sordide, insomma. Poi in realtà, ripercorrendo questo percorso che tu hai tracciato, rilavorando un po' le immagini. Sì, esatto. Io sono partito dalle fotografie originali, che trattandosi di foto degli anni 40-50 erano quelle classiche molto piccole, 5x7 con la merlettatura intorno, e anche molto rovinate. Quindi le ho rifotografate sempre su pellicola, perché comunque volevo mantenere un legame con l'originale. Quindi non ho usato il digitale, perché non mi piace prima di tutto, e poi appunto, come ho detto, volevo mantenere questa dimensione un po' che ormai appartiene al passato. E poi, sviluppando il rullino in fase di stampa, Le foto sono state rielaborate con particolari tecniche, ovviamente in camera oscura, con basculaggi dell'ingranditore, mascherature, cercando di sfumare tutti i contorni delle foto, rendendole molto sognanti, se vogliamo, e mettendo a fuoco solamente le espressioni, che sono la cosa che dovrebbe colpire di più. Ma se ipotizziamo che ogni nostro ascoltatore ha la famosa scatola di cartone o di metallo in cui ci sono le fotografie che, diciamo, si trascina dietro perché attraverso il passaggio delle generazioni sono delle cose che restano così nelle mani un po' a tutti. Però è anche una scatola di cui non ci si riesce a separare, ma spesso e volentieri non si riesce neanche ad aprire, perché stanno lì, però non tutti hanno il coraggio di andarla. Cosa gli diciamo? Come fare per aprire quella scatola? Dove incominciare a guardare? Beh, questa era, diciamo, una delle prime riflessioni che mi ha portato poi a concepire questo lavoro, nel senso che poi l'idea è nata casualmente proprio perché io sono andato da mia nonna per caso una volta, aprendo le cassette, ho trovato dei vecchi album di fotografie che non avevo mai visto, e neanche lei si ricordava appunto di queste fotografie, e quindi le abbiamo poi riscoperte insieme. Beh, alla fine chiunque, come detto, possiede questi album di famiglia, e appunto potrebbe essere questo lo spunto per andarli a rivedere e forse riscoprire dei valori del passato e riproiettarli poi nel futuro, per farci comprendere quante cose poi ci perdiamo realmente, perché magari ovviamente la scala di valori è cambiata e adesso ci sembrano negative tante cose che rispetto a 40-50 anni fa erano sono delle cose ridicole. Ricordiamo appunto tutte le generazioni dei nostri nonni che hanno passato le guerre, e ora viviamo in una situazione di estremo benessere in confronto a loro, quindi ha quasi un potere pedagogico quello di ritornare a osservare e studiare le vecchie foto di famiglia, anche perché la cosa che più mi ha colpito quando sono andato a ritrovare queste foto era proprio la serenità che mi trasmettevano le espressioni delle persone fotografate, una serenità che ora non è difficile ritrovare nelle immagini, soprattutto quelle che ci propinano quotidianamente, che sono nettamente negative. Beh, ma in fondo appartenete anche a una generazione di privilegiati, perché uno che si avvicina alla sessantina come me, quando apre la famosa scatola, forse le foto più antiche che ho trovato di mio padre, è una sua foto quando si arruolò nell'arma dei carabinieri, è una foto di un matrimonio di cui, diciamo, non ho memoria, perché è una foto che non vidi quando mio padre era ancora in vita, con dei parenti, suppongo, anche dei miei nonni che non ho conosciuto. Quindi poi in realtà, perché la storia un po' della fotografia sembra una storia ormai acquisita, però fino agli anni 40 e 50 era comunque un oggetto abbastanza raro, uno ne metteva da parte durante la vita due o tre e bastavano. Poi dopo è iniziata la bulimia di immagini. Ma giovani invece della tua generazione che possono ritrovare sulla faccia della propria nonna o del proprio nonno la gioia di tenere in braccio il proprio padre appena nato. Sì, beh, questa è una cosa strana. Poi è stato anche particolare ieri durante l'inaugurazione il fatto che molte persone mi chiedessero se ero io un bambino fotografato. In realtà era mio padre, e questo comunque mi rendeva contento perché c'è stato questo riconoscimento Ma nella io lo trovo persona. fantastico, infatti no, qualcosa mi ha impressionato anche me guardando il catalogo. Cioè, avere la fortuna di avere la luce degli occhi della propria nonna mentre stringeva il braccio il proprio padre. Cioè, vedere un gesto che sembra acquisito, comunque averne la testimonianza. Però è vero che poi la gioia, scrive qualcuno nel tuo catalogo, come tutto il resto della nostra vita, non può durare per sempre, ma avere un'istantanea che ci ricorda che comunque quella gioia è stata provata, la trovo straordinaria. Sì, sì, il testo del catalogo è di Eva Clausen, che è una critica d'arte giornalista e appunto ha curato la mostra, e volevo ringraziarla molto anche per il testo che ha scritto all'interno del catalogo. E in che modo, secondo te, sempre seguendo il testo della tua critica, le foto un pochettino ritrovate del passato diventano un dono del passato? Beh, un dono perché, come dicevo prima, c'è una specie di forza evocativa che emanano e che quindi, soprattutto riallacciandoci alla tematica, possono dare sensazioni positive, anche se appunto appartengono quei momenti al passato, ormai non ci sono più, sono defunti. Il solo fatto che comunque siano rimasti impressi nella carta fotografica è qualcosa che poi nel presente noi possiamo avere una cosa di cui possiamo goderne, insomma. Quindi per questo si parlava di dono del passato, e sembra appunto, come ripeto, una cosa banale, però forse nel presente non siamo più abituati a osservare bene le cose e a studiarle e a prenderne i lati positivi. Ma nel presente forse non siamo neanche abituati a pensare che la storia è quella con la S maiuscola, alla fine diventa accessibile, fruibile, solo se viene scomposta attraverso tante infinite piccole storie, di cui appunto anche una biblioteca di storia contemporanea riesce a farsi carico per ricordarci che in fondo dietro le grandi categorie ci sono forse quelle cose che stiamo facendo in questo momento e che poi solo più tardi diventeranno la storia vera e vissuta di quello che poi è l'immagine del nostro paese. Andrea Papi, fotografo, album di famiglia, la sua mostra in corso a Roma per il Festival della Fotografia, Palazzo Mattei, Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea. Andrea Papi, la nostra guida per la puntata di questa settimana. Il cielo in una frase di Filippo Di Giacomo e di Andrea Papi, la nostra guida questa settimana. Andrea è un fotografo, espone a Palazzo Mattei di Giove, Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea, una mostra intitolata Album di Famiglia, le foto della sua famiglia riprese, rilavorate con la pazienza di un tempo per tracciare, diciamo così, un ricordo dentro un tracciato chiamato memoria, dove la gioia, come tutto quello che proviamo, viene riletto sugli sguardi e nelle espressioni dei suoi familiari. Un percorso un po', diciamo così, facile da postulare, forse un po' difficile da ricompiere all'interno del nostro vissuto, anche perché spesso e volentieri delle persone che ci hanno preceduto ricordiamo solo quello che ci piace a volte e non tutta la memoria che si riportano. Da quanti anni fai il fotografo, Andrea? Diciamo seriamente da 3-4 anni. Ho fatto una scuola di fotografia in un'agenzia di Roma e dopo ho continuato a lavorare come assistente di una fotografa di moda per un anno e mezzo circa. Poi sinceramente non mi piaceva molto quel tipo di fotografia così costruita, finta, patinata, e ho iniziato a lavorare ho iniziato una mia propria ricerca, e soprattutto usando la pellicola, non perché pensi che il digitale comunque non serve, però secondo me la fotografia analogica delle differenze soprattutto emozionali con il digitale, per cui dal momento dello scatto al momento in cui compare la foto ci sono quei passaggi che sono emozionanti, proprio vedere lo sviluppo del rullino, l'immagine che viene piano piano fuori, e poi fare la provinatura, la stampa, mentre col digitale è tutto immediato, quindi qualsiasi errore si può cancellare immediatamente e si può anche andare a tentativi finché poi la foto buona viene. Quindi diciamo lavoro fondamentalmente su pellicola e poi ho iniziato a fare delle mostre a Torino, a Roma, a Venezia e ora l'ultimo lavoro è questo qui presentato per il festival. Però fino agli anni 90, diciamo sì, è più facile avere memoria di qualche fotografo le cui immagini arrivavano sui giornali o anche per vari mezzi alla nostra attenzione e ci provocavano per così dire non solo la meraviglia ma anche la capacità di sapere che quell'immagine veniva dalla macchina usata da questo fotografo a posto di quell'altra. E qualcuno ha detto che anche le immagini sono diventate più democratiche perché siamo diventati tutti capaci di fare televisione, siamo diventati tutti capaci di fare le foto e quindi siamo anche, niente rende più democratici che essere operatori del settore. È facile per un fotografo oggi acquistare una cifra tale per cui diciamo, un'immagine viene riconosciuta come proveniente da, piuttosto che dall'indefinito chiamato web o grandi agenzie? Ma diciamo tutto questo discorso si rilaccia prima di tutto penso alla situazione della fotografia in Italia che secondo me è un po' ancora troppo sottovalutata, non considerata come una forma d'arte come può esserlo, vabbè, prima di tutto negli Stati Uniti o se ritorniamo in Europa, in Francia, dove ci sono festival molto importanti ogni anno internazionali, a parte Paris Photo, ci sono gli incontri di fotografia di Arles, il festival di Montpellier, di Perpignan. Quali sarebbero gli elementi che dovrebbero far configurare oggi come oggi, dove tutti siamo appunto operatori del settore, o ci illudiamo di esserlo, perché è facile avere materiale di pregio tra le mani anche a prezzo abbastanza ridotto, insomma, cioè, se uno ha un PC a casa e una macchina digitale può avere quasi un piccolo studio di montaggio e di elaborazione dell'immagine, poi anche quello che l'acquisizione e la condivisione delle immagini ci rende, insomma, per chi ha tempo, passione, capaci di... C'è anche chi ha tentato di fare la televisione solo con le riprese dette ancora amatoriali dei propri ascoltatori. Ma quali sarebbero oggi gli elementi che ci fanno dire che ad un certo punto la tua foto è diversa dalla mia? Credo prima di tutto ci debba essere un'impronta e uno stile ben preciso nel percorso comunque di un fotografo, nel senso che è bene sempre evolversi, però sempre senza mai cambiare del tutto. Quindi almeno quello che provo a fare io è cercare di portare avanti in diversi lavori sempre una stessa impronta fotografica. Nei miei lavori precedenti sono fotografie molto diverse ovviamente da queste del lavoro album di famiglia. Cerco soprattutto di sondare l'interazione fra figura umana e spazio, quindi lavoro soprattutto in posa B, a mano libera, con delle macchine particolari di medio formato, con macchine lomografiche che sono speciali macchine fotografiche nate proprio come difettose che provengono dall'ex Repubblica Sovietica e queste mi permettono di dare alle foto un'impronta sempre un po' sognante, se vogliamo anche a volte angosciante, quindi ci sono spesso queste figure mosse con gli aloni, la scia in contesti di luoghi abbandonati che però devo dire vengono riconosciute almeno per quanto riguarda le persone che mi seguono da un po', seguono i miei lavori, sebbene poi siano diversi l'uno dall'altro. Però sono, almeno a detta loro, spero sia la realtà, sono riuscito a dare un'impronta. Quindi il consiglio che sento magari di dare a chi vuole lavorare con la fotografia è quello di trovare un proprio stile, rimanere fedele a quello stile, però cercando di evolversi e non fare sempre le stesse cose. E quando il giovane Andrea Papi vuole regalarsi un attimo di piacere, vuole guardare delle belle fotografie, da che parte guarda? Che fotografo o quale fotografa va a cercare? Sì, beh, allora mi piace molto Francesca Woodman, una giovane fotografa americana che è vissuta anche a Roma, che è morta molto giovane, ha operato negli anni 70 e primi anni 80. Poi Sarah Moon, che viene dal mondo della moda, però ha cercato di lavorare in modo differente, per cui soprattutto col banco ottico, decontestualizzando le immagini e tutto il resto. Diciamo, queste due fotografe sono quelle a cui più mi ispiro e che stimo. Comunque ce ne sono poi molti altri, siamo pieni di bravi fotografi. E diciamo così, se dovessimo anche raggruppare le grandi scuole di pensiero, perché hai mischiato, diciamo così, il banco ottico a priori filosofici molto evidenti, insomma, quindi la relazione immagine-corpo, interazione con lo spazio, insomma, qui il discorso ci porterebbe lontano, ma se dovessimo così pensare a delle grandi scuole di pensiero nella fotografia contemporanea, da che parte bisogna guardare? Ma nella fotografia contemporanea mi piace molto la stage photography di Gregory Crewdson, che è un fotografo americano che costruisce dei veri e propri set per fare uno scatto singolo, quindi ha delle troupe cinematografiche che costruiscono proprio l'immagine, lui scatta e in una singola foto c'è raccontata una storia che va proprio al di là della singola immagine fotografica. E così abbiamo capito che comunque tra le nostre foto e quelli dei fotografi c'è, diciamo così, di mezzo un sacco di mare, però al centro poi coincidiamo guardare con gli stessi occhi quello che poi è il mondo e così come esso ci appare. Andrea Papi, album di famiglia, la sua mostra in corso a Roma, Palazzo Mattei di Giove, Biblioteca di Storia Moderna Contemporanea, via Caetani. È stata la nostra guida questa settimana, grazie. Grazie a voi. Grazie a voi, grazie Valerio, grazie Riccardo e a risentirci.